Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo sempre noi, 451 intersezioni, come al solito in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko, come ogni ormai giovedì notte, dalle 24 fino all'una circa e dintorni. Nuova trasmissione come orario, come impostazione. Quest'anno ovviamente ci siamo spostati, per coloro che si fossero casualmente messi in ascolto in questo orario si aspettavano tutt'altro, oppure si aspettavano che il nastrone di Radio Città Fujiko notturno continuasse a procreare musiche più o meno fruibili. Ecco, ci siamo noi, dunque chi non ama le musiche sperimentali un po' ardite, un po' graffianti, alle volte urticanti, si allontani da queste frequenze. Chi invece è insospettito, incuriosito da questo programma, rimanga in ascolto e veda se ascolti se gli va bene oppure no. Comunque 451 intersezioni, che lo scorso anno andava in onda dalle 20 alle 21, si è spostato ogni giovedì appunto dalle 24 fino all'una, una e mezza circa, dipende dall'atmosfera, dall'aria e anche dalla mia ispirazione. Conduce il programma il sottoscritto, cioè Eliso Scarpa, che vi auguro intanto una buona nottata. Ricordo sempre il nostro blog No Blog 451, che potrete trovare all'indirizzo 451frammentisonori.noblogs.org, e lì troverete, oltre allo spazio di 451 intersezioni, anche la gemella, la sorella, la compagna di questo network, e cioè 451 Frammenti Sonori, condotto da Max Macchia, che saluto come al solito caramente dalle frequenze, dalla diretta radio, che invece va in onda proprio la giornata precedente, cioè il mercoledì notte dalle 23 all'una circa. E ieri sera il buon Max ha fatto una trasmissione sicuramente molto bella, che ho ascoltato piacevolmente. Oltretutto ci sono molti richiami, rimandi alla trasmissione di stasera. Lui non lo sapeva, io non lo sapevo, l'ho saputo ieri sera, ma molta carne al fuoco che stasera cucineremo su queste frequenze. In parte l'ha già inserita nella trasmissione della scorsa notte, dunque colorata molto di musica industriale. Anche stasera affronteremo il tema della musica industriale, ma in un contesto in parte differente, perché è molto più centrato, scusate il grugnito causato dal difetto di noi fumatori, e collegata per certi versi, perché stasera affronteremo, e non potevamo fare altrimenti, io parlo sempre al plurale perché in realtà mi sento sempre parte di un collettivo, di un progetto comune che infatti è esistente con il caro amico e compagno Max Macchia, ma in realtà la trasmissione la conduco solo io, dunque mi devo un po' abituare a parlare al singolare. Comunque non potevo non declinare la puntata, il tema di stasera, su quello che è successo qualche giorno fa a Parigi e tutto quello che sta succedendo in Francia e non solo, in tutta l'Europa, in tutto l'Occidente. Sono già partiti bombardamenti vari in Siria e non solo, e ovviamente parleremo della strage di Parigi, ma in un'ottica ovviamente un po' diversa dai media mainstream e da molte voci anche su internet e dintorni. Ovviamente non mi voglio accodare a questo coro molte volte e spesso ipocrita da parte dei media occidentali rispetto a quello che è avvenuto. È chiaro che il fatto di Parigi è gravissimo, è una cosa barbarica. Infatti io vorrei citare una frase famosa, un testo famoso di Lenin: socialismo barbarie, perché qua siamo proprio nella barbarie. E chiaramente per uno che è comunista o comunque comunista libertario come il sottoscritto, ovviamente mi sembra di essere spesso un extraterrestre in questo contesto storico, perché adesso ci troviamo di fronte a questa guerra ormai dichiarata anche dalla stessa Francia, con leggi d'emergenza, limitazione delle libertà personali, individuali e anche collettive, divieti di assembramenti, probabilmente verranno ovviamente non concesse manifestazioni, dunque tutta una serie di cose che andrà a colpire ovviamente anche le lotte, le rivendicazioni più che giuste dal punto di vista sociale e politico di molte popolazioni. Questo è un clima generale, ormai si parla di guerra, e in questo senso il tema di stasera non poteva essere che terrore e controllo. Terrore, ovviamente, chiaro, il terrore di Parigi, ma non solo, perché non dobbiamo dimenticarci i bombardamenti, i stermini che partono da lontano, dalla guerra in Iraq per arrivare in Afghanistan, in Siria, quello che sta succedendo anche e quello che è successo in Libia. Dunque sembra appunto, e molti lo dicevano anche in passato, che stanno ritornando indietro le bombe, i disastri provocati dall'Occidente, che adesso utilizza anche in maniera ovviamente speculare e chiaramente anche molto furbesca la dinamica dello Stato Islamico, dell'ISIS, che è un po' l'altra faccia della stessa medaglia del capitalismo imperialista occidentale, che porta avanti guerre, stermini, sfruttamenti, e si allea e finanzia e arma dittatori e stati sanguinari, e poi si inventa appunto in questo caso un nemico importante che c'è, esiste, ma spesso è finanziato dallo stesso Occidente in una maniera assolutamente speculare, per poi controllare, creare uno stato di terrore anche nel nostro Occidente, ma creato non solo dall'ISIS, dalle stesse autorità, dagli stati che limiteranno sempre più le libertà. Già è cambiato il linguaggio, già è cambiato la declinazione di molti discorsi anche nei giornali, ma anche nei talk show, in tutto quello che attraversa i media, e ovviamente io non potevo esimermi da affrontare questo tema in un'ottica ovviamente critica, in un'ottica antagonista, dialettica e comunista in questo senso. Da questo punto di vista, ovviamente, terrore e controllo affronterà dal punto di vista sonoro, perché stasera cercherò di portare avanti una sorta di racconto di quello che sta succedendo, di quello che potrebbe anche succedere negli anni a venire, perché rischiamo di doverci preparare a un clima molto pesante in tutto l'Occidente. Ovviamente si sta già creando il nemico barbarico, l'inserimento di tutta i musulmani dentro lo stesso calderone, tutto ciò che è diverso da noi come nemico è qualcosa di molto pericoloso, che già aleggiava, ma gli attentati e le stragi avvenute a Parigi non hanno che alimentato e peggiorato un clima che già era abbastanza fecondo di fascismo e di controllo sociale. In questo, dal punto di vista di racconto sonoro, diciamo che dipaneremo questo nostro viaggio dentro ovviamente meandri abbastanza plumbei, scuri e inquietanti. In questo senso affronteremo atmosfere sonore che si muovono tra il drone, l'ambient, il dark ambient, atmosfere anche appunto molto molto scure, per poi ovviamente spesso attraversare progetti della musica industriale che da un certo punto di vista politico, sonoro e anche simbolico ha spesso affrontato il tema della decadenza, del controllo, del fascismo strisciante in tante società occidentali cosiddette democratiche, poi solo formalmente, non sostanzialmente. E in questo la musica industriale, molti progetti sono stati veramente abbastanza preveggenti rispetto a quello che poteva accadere, e che in parte stiamo già vivendo adesso dentro la barbarie, appunto, non essendoci un socialismo reale, realmente realizzato, non quello reale dei paesi dell'est, che ovviamente dal punto di vista politico si condanna vivamente per quello che hanno creato, ma appunto un un'idea di barbarie connaturata e quasi antitetica a un'idea di socialismo e di comunismo. In questo senso Musica Industriale sarà molto presente con progetti degli anni 70 e anni 80, ma anche altri progetti più recenti che comunque attingono alla linfa e al linguaggio industriale. In questo senso partiamo dunque con Terrore e Controllo, perché l'altro aspetto oltre al terrore sarà appunto il controllo sociale in tutte le sue forme individuali e collettive, si sta già effettivamente verificando, inasprito chiaramente, perché il sistema capitalista ha nel suo DNA il controllo sociale attraverso vari canali mediatici, all'interno ovviamente dell'immaginario, all'interno delle dimensioni più collettive come scuola, dimensioni di controllo stesso che sono la famiglia, tutte strutture che stanno dentro il meccanismo della produzione e della riproduzione, dunque della nostra vita quotidiana in tutte le sue forme, anche nei nostri desideri, nelle nostre relazioni, ma chiaramente in un momento di guerra, di stretta anche repressiva, di controlli quasi maniacali, l'effetto domino va a cascata rispetto alla gran parte della popolazione, anche dei soggetti sempre più deboli, perché insomma anche le retate e quello che è successo all'interno delle stesse banlieue parigine poi possono portare degli effetti assolutamente dirompenti. Una Babele, un grande caos, e in questo il controllo diventa fondamentale. E noi, per aprire dentro il terrore, l'effetto terrorifico e anche l'atmosfera plumbea, scura e appunto quasi mortifera del post strage, apriamo con un gruppo che si muove dentro il dark ambient, seppur anche ha dei riferimenti con l'ambient drone e con Sound College. Parliamo di un progetto non particolarmente conosciuto, inglese, londinese, nato all'inizio degli anni zero, denominato C-Club, costituito da Stephen Trower e Ossian Brown, progetto elettronico che si muove dentro una sorta di allucinazione sonora e plumbea che rappresenta forse perfettamente anche l'incipit e l'inizio di questo percorso sonoro dentro Terrore e Controllo. Apriamo dunque così con i C-Club dall'album Sulfur Tarot Garden, uscito nel 2012, e dunque 451 intersezioni apre così con questo album molto interessante, anche se forse è da prendere a piccole dosi essendo estremamente scuro, dei C-Club Sulfur Tarot Garden. Buon ascolto. Siamo rientrati in diretta, abbiamo aperto con questa mastodontica traccia piuttosto scura, appunto plumbea, dei Sick Club. Ricordiamo ancora, formazione londinese che ha fatto uscire pochi album, l'ultimo è proprio quello che abbiamo ascoltato adesso, una traccia da Sulphur Tarot Garden del 2012. E dai Sick Club ci andiamo subito ad immergere dentro proprio uno dei progetti più interessanti di San Francisco, della scena industriale tra il 78 e l'82, e appunto scena industriale che spesso ha denunciato attraverso le loro musiche, le performance, le provocazioni e anche chiaramente molte volte dei veri e propri manifesti artistici e politici contro il controllo sociale, soprattutto quello statunitense, che in una fase tra la fine 70 e inizio anni 80, con un cambiamento dal punto di vista anche della produzione industriale, stava vivendo, iniziando a vivere un fenomeno nuovo anche di difficoltà e di trasformazione sociale. Da lì nascerà poi, dal punk al post-punk alla no wave, e anche l'industria ha attraversato le lande americane, non soltanto quelle europee. In particolar modo questo gruppo, che appunto spesso ha anche provocato sul piano del controllo continuo sociale del sistema americano, controllo sociale che attraversa moltissimo ovviamente in questa fase, in questi giorni, l'Europa, ma tutto l'Occidente. E appunto, come dicevo nell'introduzione della trasmissione di stasera, gran parte dei media mainstream chiaramente stanno facendo un vero e proprio continuo martellamento di regime. Qualcosa esce di differente, tipo stasera, non vi voglio ovviamente indicare che tipo di trasmissione, mi è capitato di cadere proprio mentre mangiavo prima della trasmissione su questa trasmissione, che finalmente qualcosina ha detto e ha fatto vedere, soprattutto nella zona della Siria, facendo un bel servizio su quello che è accaduto in alcune città della zona siriana che prima erano yazide, la popolazione yazide, e anche in parte vicine dalle occupate, erano zone curde occupate dai peshmerga curdi. Proprio quello che è accaduto, quello che ha fatto l'ISIS, ma quello che hanno dovuto subire queste popolazioni sterminate, uccise, massacrate dall'ISIS, e quello che non ha fatto l'Occidente, anzi quello che ha voluto anche non fare, proprio nell'ottica di questo gioco di potere e di interessi che ovviamente gran parte dei media, dei talk show, ma non soltanto dei media mainstream, perché non pensiamo che la rete o internet sia qualcosa di astruso e scollegato da controlli sociali e politici o sistemici. Anche la rete viene attraversata da questo tipo di controllo, ha degli spazi ancora di libertà che sono sempre meno e sempre più manipolati. Ecco, un caso è stato questo, ecco, ma sono veramente molto rari documentari o servizi che cercano di guardare o di leggere la complessità di tutta la situazione attuale che sta coinvolgendo l'Europa e tutto il mondo ormai, perché si sta già parlando di una sorta di meccanismo di guerra globale che si sta innestando. In questo appunto formazioni anche industriali che soprattutto tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, con la guerra in Afghanistan, con tutto quello che stava succedendo anche in Medio Oriente, erano ben attenti alle dinamiche del governo statunitense, di quello che faceva a livello di controllo mondiale. Formazione che non vi ho ancora enunciato, adesso ve la presento. Si tratta dei Factrix, formazione appunto molto sperimentale della scena industriale di San Francisco, che è stata attiva tra il 78 e l'82, formata da tre grandi musicisti, Bon Berglund, Cole Palm e Joseph Jacobs. Sono usciti praticamente solo due veri e propri album tra il 78 e l'82, poi addirittura una cosa è uscita molto recentemente di recupero anche di materiali degli stessi Factrix. Abbiamo scelto proprio il disco più importante, più conosciuto, che è Shane Tott, uscito per la Adolescent Records nel 1981, e ci ascolteremo un brano dove appunto anche il racconto di una certa scena industriale, che è anche stata in parte figlia e contaminata anche dalla scena punk, post-punk, attraversava e raccontava con un proprio linguaggio l'idea appunto di terrore e controllo sociale. Anche qui ovviamente atmosfere piuttosto scure, ma con una dinamica anche rabbiosa e urticante. Ce l'andiamo a sentire dunque, Factrix, album Shane Tott, 1981. Thank you. Thank you. I remove the rectum itself with the E siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix industrial collegando i Factrix, ricordiamo ancora, dall'album 108 uscito per l'Adolescent Records nell'81, un gruppo appunto, come avevo già detto, che è nato nel 1978 e ha sviluppato il suo percorso sperimentale industriale tra il 78 e il 1982, formazione di San Francisco. All'altra formazione industriale, SPK, formazione australiana molto importante di Sydney, nata nel 1978, anche loro dunque praticamente contemporanei, siamo passati da San Francisco all'Australia. Formazione che ha portato avanti le proprie produzioni musicali per tutti gli anni 80, ha fatto uscire anche un album nel 2008, che poi in realtà è un lavoro di recupero di molti materiali passati, anche inediti. Abbiamo ascoltato, oltre diciamo mixati ai Factrix dai SPK, l'album Lichen Schrei del 1982 uscito per la Thermidor. Avrete ascoltato queste atmosfere chiaramente, dove la parte ritmica è molto marziale, anche molto inquietante, militaresca per certi versi, e questi suoni molto scuri, queste voci un po' dilaniate, un po' malate, che si inseriscono all'interno del brano, e questi suoni che sembrano un po' una sorta di contaminazione tra sirene di autoambulanza o di polizia, con suoni addirittura che possono riecheggiare certe melodie, certi suoni addirittura della musica araba. In questo ovviamente si inserisce perfettamente dentro il racconto sonoro di quello che vogliamo rappresentare stasera in Terrore e Controllo. Controllo sociale che chiaramente la musica industriale, i progetti di musica industriale spesso hanno voluto denunciare all'interno del loro album, delle loro performance, una libertà che in realtà non esisteva nel mondo occidentale, che loro volevano continuamente denunciare politicamente, ma anche alle volte provocatoriamente, senza una vera e propria denuncia diretta attraverso appunto gli sviluppi musicali, le costruzioni sonore e anche le performance in pubblico, che spesso erano abbastanza antisociali e dirompenti anche nei confronti ovviamente dell'ordine pubblico. Questo ordine pubblico che viene sempre propagandato. Adesso ci sarà il discorso collegato alla sicurezza, già molti politici, gruppi e opinionisti stanno parlando di dover investire di più ovviamente sulle forze dell'ordine, sulla sicurezza, senza tener conto che chiaramente molte persone cascano dentro questa propaganda. In realtà questo può portare ovviamente anche dei rischi rispetto alla nostra tranquillità di esseri umani, di cittadini, e anche di chiaramente sfruttati all'interno di un sistema sempre meno garantiti i diritti, le condizioni economiche di dignità rispetto anche alla propria sopravvivenza. E questo ovviamente attraverso un aumento degli investimenti e degli finanziamenti alle forze dell'ordine non è certo un buon auspicio in prospettiva. Fa anche sorridere, se non un sorriso amaro e un po' anche inquietato, ascoltare anche certi discorsi legati alla sicurezza e la tranquillità e l'affidabilità dei nostri servizi segreti, della nostra intelligence. Insomma, ho sentito dire molte cose anche da gente che si considera di sinistra o si definisce di sinistra, e anche marcatamente di sinistra, che fa questi discorsi. Insomma, ci dimentichiamo quello che era successo nel passato in Italia, dagli anni 70-80, alle stragi, ai deragliamenti aerei, alla repressione, alle uccisioni tra posti di blocco e compagni arrestati, uccisi semplicemente perché si sospettava una collateralità rispetto alle Brigate Rosse. Insomma, ci si dimentica quello che è stato, quello che sono stati i servizi segreti, non solo italiani, ma anche americani, europei, occidentali, e l'intelligence. Adesso addirittura siamo tranquilli, siamo sereni. problemi, perché siamo in mano a un'ottima intelligence, così sta girando il discorso in Italia soprattutto. La Francia è meno preparata, noi abbiamo un'intelligence già preparata perché abbiamo affrontato terrorismo delle Brigate Rosse e la mafia. Ecco, insomma, mi sembra un discorso molto lineare, molto rassicurante sicuramente. Allora, andando oltre, andiamo, in realtà non andiamo oltre, andiamo proprio dentro la materia del terrore, del controllo, con un autore invece molto più recente, che è cresciuto nella nuova elettronica, nell'elettronica digitale negli anni 90. Parliamo di Thomas Conner, che è già passato diverse volte sulle frequenze di 451, musicista tedesco che ha portato avanti la sua sperimentazione di tipo elettronico, muovendosi dentro l'ambient, ma anche dentro la materia prettamente dronica, anche in parte al field recordings, a sperimentazioni comunque anche sull'elettroacustica, ma fondamentalmente rimane un musicista che si muove sull'elettronica digitale, sui flussi sonori, creando delle atmosfere che spesso sono sicuramente anche visionarie dal punto di vista proprio sonoro, e in questo senso si inseriva bene dentro il racconto di stasera di terrore e controllo. L'album a cui ci riferiamo stasera, che ascolteremo, di Thomas Conner, è l'album, praticamente il penultimo album che ha fatto uscire, uscito per la Touch Novaya Zemlya, uscito nel 2012. Ci andiamo ad ascoltare una traccia, percorrendo ancora questo tracciato, questo sentiero di terrore e controllo.